dai canali di Richard Maitland. Siamo pronti con questo registratore, sergente? Ecco, va bene, allora. Possiamo andare. Possiamo andare. Registrato il 15 gennaio 1981 alla 24esima sezione di polizia, St. James Street 54, dal tenente James Taylor e dal sergente Luis Ferrazzi. Allora, il tuo nome, per cortesia. Come? Come ti chiami, figliolo? Come mi chiamo? Avanti, figliolo, come? Stiamo solo cercando di aiutarti. Non vogliamo. Come mi chiamo? Non vogliamo farti del male. Come ti chiami? Mi chiamo Leo, signore. Sì, Leo. Va sì, bene. Signora. E di cognome? Cognome? Com'è mi il chiamo, tuo cognome, figliolo? Mi chiamo Leo. Fogel, signore. Fogel. Va bene? Sì, signore. Ecco, l'indirizzo per cortesia. L'indirizzo. Io abito in 230, signore, 230, sì, della 54esima strada, sì. Sì, va bene. La abito tua Brooklyn, va sì. Bene. Brooklyn, ecco. Sì. La tua età? Come età, signore? Io ho compiuto, ma dov'è la mia mamma, signore? Mamma! Mamma! Sergente, interrompete mamma! Un Mamma, la mia mamma. Sergente, interrompete mamma! Un momento. Va meglio adesso, figliolo? Sì, signore. Ti senti meglio? Sì, signore, va meglio così, sì. Ma dov'è, signor? Allora, mamma, signor. Riprendiamo, Leo. Quanti anni hai? Ho compiuto, signore, 14 anni. Va bene. Allora, vediamo. Dove eri tu ieri sera? Voglio dire, dove sei stato dalle 6 del pomeriggio fino a quando sei tornato a casa? Io non so quell'ora, signore. Io sono stato al cinema, sì. Mi aveva dato i soldi la mamma. Ecco, e come mai non sei rimasto a casa pure tu per vedere la televisione insieme con i tuoi? Come mai? Come mai? Sì, perché? Cioè perché non sei stato a vedere la televisione con i tuoi? Dovevano venire, signore, i Lenotti, sì, signori Lenotti. Ah, i vostri conoscenti, sì, ho capito. Sì, signor, quelli conoscevano. Senti, ma venivano spesso? No, signore, è la prima volta che venivano. Ho capito. Sì, era e così tua madre ti ha mandato al cinema, sì, eh? Sì, così. Sentite, sergente, non c'è un poco di caffè, per favore, per questo ragazzo? E anche, forse, sarebbe bene trovargli una coperta, ecco, grazie, andate. Allora, figliolo, torniamo a noi. Sì. Vediamo un po', a che ora sei uscito dal cinema? Come, a che ora? Non lo so, a che ora... Diciamo che saranno state le 9:30? Sì, no, forse. Non lo so, è tutto quello che so io, che ma sono tornato a casa. Come? Quello che so io, sono tornato a casa. Insomma, questo film, quante volte l'hai visto? Una volta sola, eh? Una volta, sì, l'ho visto. L'hai visto una volta sola, non l'hai visto due volte, no? No, signore, no. Allora, dovresti essere uscito dal cinema, diciamo, verso le 9:30, più o meno, e sei subito tornato a casa? Sì, cioè no, mi sono fermato. Ti sei fermato in qualche posto, ecco, dove? Ho preso una Coca-Cola, signore. Al chiosco, sì. E poi sei andato a casa? Sì. Ecco, sei andato a casa. Sì, la casa sì. Era al buio quando sì. Tu sei arrivato? Sì, era al buio, ma non tengono mai la luce accesa i miei genitori quando guardiamo la televisione, noi. No. E tu sei entrato? Sì. Senti, figliolo, bevi un sorso del tuo caffè prima. Grazie, grazie signore, grazie. Piano, piano, non ti strozzare, ecco. Oh. Allora, sentiamo. Ecco, sì, sergente, sulle spalle, per, grazie, sì, per cortesia, grazie. Questa coperta. Va meglio così? Sì, eh? Sì, va meglio. Allora, cerchiamo di andare avanti. Guarda, figliolo, credimi, non è divertente neppure per noi, eh? Sì. Allora, quando noi siamo entrati in casa tua, abbiamo visto... La mamma, dov'è il signore, la mamma? Mamma! Non fare così, ragazzo, mamma. Senti, sergente, staccate un momento, figliolo. Prendi il mio fazzoletto, dai. Avete chiuso, sergente? Allora, quando sei entrato in casa, hai notato niente di strano? Strano? E come strano, signora? Ieri sera ci hai detto che avevi sentito un certo odore. Sì, sì, sì, è vero. C'era uno strano odore, sì. E sapresti dirmi di che cosa era questo odore? Come? Non somigliava a nessun altro odore? No, ma non era molto forte, sai, sono entrato solo in anticamera e... Ho capito, e poi così strano. Sei entrato nel soggiorno. No, no, no, sono salito su... La mamma! Andiamo, mamma! Andiamo, figliolo, calmati, mamma, calmati, coraggio, mi coraggio. Dai, sappiamo che è stato terribile, ma noi stiamo signora. Solo cercando di aiutarti. Calmati, calmati, dai, avanti, prendi questo cerino, su, calmati un attimo. Dunque, dicevi che non sei andato nel soggiorno e a quell'odore non hai dato importanza. Eh no, ho sentito che era ancora aperta. Aperta? Sai? Aperta, sì. Ma scusa, che cosa aperta? La televisione. Ah, era la aperta televisione. Ancora. E stavano ancora a guardarla, ho pensato. Hai pensato io, che sì, stessero, ecco. Sono lì. Ho capito. E allora? Sa, non potevo entrare, la mamma tante volte mi aveva detto di non disturbarli, sa, quando guardano la televisione, i grandi, meglio non disturbarli, così sono andato in camera mia, signora. Perché in questo modo non li disturbavi. Certo, sì. E quanto tempo ci sei rimasto? Non lo so, forse mi sono addormentato, un'oretta, credo, non lo so. E poi? E niente, sotto non c'era più nessun rumore. Proprio nessun rumore? No, no, niente. E questo ti è sembrato strano? Eh sì, dovevano, sa, ridono quando c'è la gente, parlano forte, io li e sento invece quando sono... silenzio completo? Sì, sì, signore, non c'era rumore. E allora tu sei sceso? No, no, non subito, sa, io sono sceso dopo, prima di andare a letto, volevo salutarmi. Volevi dargli la sì. Buonanotte? Sì. Sei sceso e hai aperto la porta del soggiorno, è così? Sì, io sì, ho aperto la porta del soggiorno. E che cosa allora, hai visto? E allora ho visto, ho sentito quella... Lasciatemi andare, signore, perché mi tiene qua? Io voglio andare... Calma. Voglio andare a casa, calmati. Signore, io non calmati, voglio andare qua. Ma per favore, voglio andare... Sergente, signore, lei mi lascia andare, sergente, signore, tenetelo, sergente! dispiace, figliolo. Sì. Ti ho fatto male? Senti, dovevo calmarti in qualche modo. Io, guarda, so come tu devi sentirti, Leo. Anche noi abbiamo visto, è stato bruttissimo, anche per noi. Ma devo farti ancora qualche domanda e poi ti riaccompagneremo da tua zia. Grazie. Allora, prima di tutto la televisione. Sì. Era ancora aperta? Sì, era aperta. E tu hai sentito un odore? Sì, signore, come in anticamera, solo che stavolta era peggio, era molto peggio. Ma lo stesso odore? Sì, lo stesso odore. Un odore come di immondizia o di animali morti. Un odore... E nessun rumore? No, niente. C'era la televisione. E sulla televisione che cosa si vedeva? Ve l'ho già detto, signore. Ecco, ma ripetilo. È per il verbale, ripetilo. C'erano quelle lettere grosse, signore. E che cosa dicevano queste lettere? C'era scritto tutto in grosso, signore. C'era scritto mangiare. Mangiare, sì, tutte grosse lettere, tutte storte. E queste lettere tu le avevi già viste altre volte? Sì, gliel'ho detto. Si vedevano sempre, sa, sul nostro apparecchio. Erano lettere grosse, tutte storte. Non sempre, però tante volte, signore, l'abbiamo visto. E ai tuoi genitori questo non era mai sembrato strano? No, sa, loro dicevano la pubblicità e tutte le cose che fanno vedere, chissà. E le altre cose che vedevate? Non so, forse era per i bambini, diceva la mamma, sa, sì. Ma che cosa era? Erano delle bocche, signore, delle bocche grandi, larghe, le bocche aperte, sì, tutte aperte, ma non erano di persone, signore. E come erano? Voglio dire, che cosa erano? Cioè, non potresti spiegare che cosa erano? No, cioè, erano grosse bocche come insetti, ecco, forse degli insetti, se non l'ho visto a scuola, come degli insetti, o dei vermi, sì, dei vermi molto grandi, tutte aperte queste bocche, signore. Va bene, questo va bene. E queste lettere, tu dicevi, si accendevano e poi si spegnevano poi dopo venivano le bocche. Sì. E poi di nuovo le lettere. Sì, così. E questo capitava ogni sera? Sì. Sempre alla stessa ora? No, cambiava. Negli intervalli, forse? No, in qualsiasi momento. E sempre sullo stesso canale? No, signore, su tutti quanti i canali. Noi cambiavamo canale, ma c'erano sempre. Qualunque canale prendevate c'erano? Sì, c'erano e quelle bocche, signore, strano. Io quando sono tornato le ho viste, le ho detto, signore, e mi lasci andare da mia zia, signore, mi lasci andare dalla mamma, mi lasci, signore. Leo, ancora un paio di domande e abbiamo finito. Dunque, tu hai detto che i tuoi genitori non hanno mai fatto controllare l'apparecchio. No, ve l'ho detto. Pensavano che erano... Va bene. Allora, torniamo invece ai fatti. Tu sei entrato nel soggiorno e hai detto che si scivolava, no? Sì, mi pare. Si scivolava su quella roba. Ma che roba? Per terra. Che roba? Non lo so, era come un grasso, signore. Come un grasso caldo, puzzava da morire. E puzzava. Poi hai trovato... Li ho trovati, signore, ho trovato la mamma, ho trovato il papà, signore, ho trovato anche i Lenotti, erano tutti insieme, Oddio, signore, Leo, Leo, signore, calmati. E l'apparecchio, trovati. Leo, per favore, l'apparecchio, che cosa c'era sull'apparecchio? Come sull'apparecchio? Sullo schermo, che cosa si vedeva sullo schermo? Sì, ci hai detto qualcosa prima? Sì. C'erano quelle lettere, sì, no? Sì, signore, c'erano quelle lettere. Quelle grandi lettere storte. Erano lì, signore, sullo schermo, le ho viste io, le ho viste. E allora? Che cosa? Che cosa è successo? Le due, signore, erano cancellate, non c'erano più, erano andate via, signore, non c'erano più, signore. E che cosa, Leo, che cosa? Erano venute altre due al posto di quelle due. E adesso erano tutte dritte, signore, erano dritte, si leggeva bene, diceva mangiato. Adesso, sì, diceva mangiato. Mangiato, signore, dice. Portatelo da sua zia sergente. Poi, signore, quello schermo si è spento, signore. Va bene, Leo. Poi, adesso il sergente ti accompagna a casa. Ti accompagna a casa di tua zia. Va bene, Leo, va bene. Come sconto di credibilità voi avete il 28%? 17%. Di questo 17% si prende il 6% il grossista. Esatto. Voi l'avete il netto di IVA? Cioè ci dovete pagare anche l'IVA su questo 17? No, 17 è pulito. Pulito. Nel senso che meno si fa. Il grossista fa il conto dei libri, no, per prezzo comprensivo di IVA e sconta il 17% che a sua volta diventa un prezzo comprensivo di IVA pure lui. Cioè, non so se mi spiego. Se io compro dal grossista per 1 milione di libri, no, lui mi fa lo sconto del 17%, no? 1 milione di prezzo comprensivo, lo sconto del 17% diventa quindi 830.000 lire, no? Queste 830.000 lire che io verso al grossista sono comprensive di IVA, dopo lui mi farà una fattura in cui sarà 800.000 di libri più 30.000 di IVA, capito? Una cosa così.